Sura delle costellazioni, capitolo 85 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 22 ayat e discesa dopo la Sura 91, Ash-Shams. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e il clementissimo, io Allah lo giuro sul cielo dotato di costellazioni, sul giorno promesso della resurrezione, su uno che rende testimonianza in esso e uno nei confronti del quale in esso viene resa testimonianza. Furono uccisi gli abitanti di Uhdud con un fuoco sempre riattizzato, mentre i loro carnefici, seduti attorno alla fornace, assistevano al supplizio che infliggevano i credenti, nei confronti dei quali essi non si vendicavano se non perché quelli, gli abitanti di Uhdud, credevano in Allah, il possente, il meritevole di ogni esaltazione, al quale appartiene il regno dei cieli e della terra, e Allah ad ogni cosa è testimone. Coloro che torturano i credenti e le credenti e non se ne pentono avranno il castigo dell'inferno e il castigo del rogo. In verità, coloro che credono e che bene operano avranno giardini sotto i quali scorrono i fiumi. In verità, certamente nel colpire la potenza del tuo Signore è tremenda. In verità, Egli creò gli uomini e li resusciterà nel giorno della resurrezione. Ed egli è il perdonatore, l'amorevole, il possessore del trono glorioso. Egli è l'unico che può fare ciò che vuole. Hai udito il racconto degli eserciti di Faraone e di Thamud? Coloro che rifiutano di credere dicono che sono tutte falsità, però Allah sta alle loro spalle circondandoli. No, questo è un Corano glorioso, in una tavola ben custodita.